May I have your attention, please? Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com. I love Italy. Yeah. I love Italy. Con Andy Mangiarati su Radio Miami. I love Italy. Estate, estate, voglia di sole, voglia di mare. Eccoci qua nello spazio dedicato all'Italia, i nostri 15 minuti in lingua italiana, alla conduzione come sempre Andy Mangiarotti, qua dallo studio di Double RMI, lo studio qua a Broni nell'Oltrepò a Pavese, appunto in Italia. Andrea al microfono, come state cari amici e care amiche? Ricordiamo ancora una volta un po' di che cosa tratta questa trasmissione in lingua italiana, solo ed esclusivamente sulle onde corte. Anzitutto siamo in onda su kHz 7730, pari a metri 41, per vaste zone del Nord America, del Centro America, dell'Europa e così via, però non si sa bene di preciso da dove ci ascoltate, perché sapete, insomma, con le onde corte il segnale copre milioni di chilometri, non si sa bene dove arriviamo. Allora, una bella giornata qua, mi auguro che anche nella vostra nazione sia altrettanto. Io sono Andrea e in apertura ricordiamo i contatti, se volete interagire con Double RMI, ma in specifico con I Love Italy, c'è il mio sito personale andreamangiarotti.com, lì potete scrivermi, potete spulciare un po' sulla mia vita. Poi abbiamo invece il sito ufficiale della trasmissione voiceofitaly.it e poi abbiamo tutte le varie coordinate per scrivermi che trovate su andreamangiarotti.com ma anche su voiceofitaly.it. comunque le ricordo velocemente, anche per segnalarci rapporti di ricezione oppure difficoltà nell'ascolto: andrea@mangiarotti.org, questa è la mia mail, andrea@mangiarotti.org, per segnalarci rapporti di ricezione, saluti, complimenti e quant'altro. Poi abbiamo il numero per mandare messaggi solo ed esclusivamente Telegram e WhatsApp, se ci scrivete da fuori dell'Italia più 39, quindi 0039 377 45 630 33. Se invece siete un po' antichi come il sottoscritto, vi piace ancora scrivere lettere o cartoline, vi rimando l'indirizzo dell'emittente che ci ospita, Double RMI, WRMI, PO Box 526852, Miami, Florida, 33152, States, Stati Uniti d'America. Nel mese scorso stavo appunto riascoltandomi sulle onde corte e ho notato che sulla frequenza 7730, per almeno un sabato, poi gli altri sabati non sono uscito ad ascoltarmi, però sentivo questo suono che sembrava censurasse la nostra trasmissione. Questo è il suono che si sentiva in alcune zone d'Europa e anche da me, dal nostro studio qua nell'Oltrepò Pavese. Praticamente questo suono è un rumore inconfondibile di una number station sovietica UVB-76, conosciuta anche come The Buzzer. E se anche voi avete notato questa anomalia sulla frequenza 7730, cioè volete comunicare, a me sembrava proprio un jamming, quindi un disturbo studiato apposta proprio per censurare, non lo so, forse perché nella precedente trasmissione parlavo di guerra, ma parlavo della guerra com'era in Italia. Non mi sono permesso di fare appunto discorsi che fanno un po' tutte le emittenti. Comunque quest'oggi vi assicuro cambiamo discorso e speriamo di non avere più interferenze come questa. Vabbè, se abbiamo ancora interferenze di The Boozer oppure qualcuno che ha acceso un trasmettitore e ha ripetuto questa number station sovietica, se volete comunicarcelo, era successo circa 3-4 settimane fa, anche due, sulla frequenza 7730 kHz, frequenza che copre vaste zone d'Europa, arriva fino in Russia, va anche oltre probabilmente, e così via. Va bene, questa era l'anomalia che ci tenevo a segnalarvi. Se anche voi avete riscontrato la stessa cosa, magari facendo radioascolto, comunicatecelo e cerchiamo di capire la situazione. Vabbè, speriamo questa volta di poterci ascoltare, prometto che non parlo di guerra. Va bene, dai, parliamo della nostra nazione. Ora, con la situazione della pandemia attuale, che è decisamente migliorata in Italia, i casi sono diminuiti, colpiscono soprattutto le persone purtroppo anziane di molti, sì, e così via, però la situazione è decisamente migliorata, che come ben sapete è stato tolto, insomma, l'uso delle mascherine all'aperto, nei locali pubblici, fatta eccezione però per le scuole, poi bisognerà valutare a settembre, però la situazione è migliorata. Nelle ultime giornate, negli ultimi punti che sono stati fatti, c'è stata un'affluenza incredibile, massiccia, un po' in tutta Italia, quindi la gente, almeno in Italia, è tornata a muoversi, a girare, a prendere di mira, insomma, le mete turistiche. Quindi se magari per l'estate ci state sentendo, non so, magari dagli Stati Uniti, dall'Europa, dalla Francia, Germania e così via, ma anche, non so, magari dalla Cina, per farvi un esempio, che i cinesi sono molto in vista in Italia, insomma, spesso anche loro prendono di mira la nostra nazione. Se ci state ascoltando un po' in giro in tutta Europa, vi invitiamo a venire a visitare l'Italia anche per questa bella estate 2022, visto che la situazione pandemica è decisamente migliorata, i casi sono proprio ridotti all'osso e per lo più i sintomi sono veramente lievi, un raffreddore, neanche una febbre, diciamo così, neanche più la tosse. Comunque in Italia si può venire, si può vivere e così via. Ora noi vi vogliamo citare le 15 mete, non quelle più rinomate come abbiamo fatto l'anno scorso, le mete insomma più in, ma le mete un po' più magari nascoste, ma altrettanto belle, e per questo motivo anche le più economiche. Però non è detto che una meta più economica sia migliore di una meta invece dove si spende denaro così a fiumi. Vediamo qualche zona d'Italia che veramente sono belle e non pagate neanche tanto. Possiamo farvi un esempio. C'è la Basilicata, che è una regione molto bella e quasi nessuno, insomma, si ricorda, però c'è questa bella regione, la Basilicata, con delle città molto belle, molto caratteristiche. Io vi segnalo, se adorate il mare, Maratea. Volevo magari farci un salto anch'io, ve lo consiglio, perché è veramente una bella cittadina. Ho visto le foto, il mare è bellissimo, è in provincia di Potenza, è un piccolo tesoro incastonato tra le montagne lucane, e praticamente siete nel mar Tirreno. Questo paese offre bellezze molto fiato, passatempi per tutti i gusti e spiagge veramente veramente belle per fare del trekking, per prendere sole, per abbronzarvi, ma anche per fare magari una vacanza archeologica, per riscoprire la storia della Basilicata e di Maratea. Pensate che i bed and breakfast vanno praticamente partono da circa 20 euro a persona, quindi niente, direi niente. Se ci sentite dall'estero, vi consiglio Maratea, questa bella cittadina in Basilicata che potete visitare. Poi vabbè, ci sono magari altri luoghi. Ora passiamo alla Puglia, Vico del Gargano, un'altra bella cittadina pugliese, che è molto importante perché c'è il Parco Nazionale del Gargano, quindi una bellezza naturalistica incredibile. ci sono foreste, potete vedere delle piante particolari, c'è praticamente anche un borgo soprannominato il Paese dell'Amore, protetto anche da San Valentino. Quindi questo luogo, Vico del Gargano, fa parte dei borghi più belli d'Italia ed ha una bellezza veramente da scoprire magari col sacco a pelo e così via. Ricordate Maratea in Basilicata e Vico del Gargano invece in Puglia per le vostre vacanze italiane. Poi ci spostiamo in campagna, perché anche la campagna ha delle bellissime cittadine da scoprire, tipo il Cilento, insomma, è uno dei luoghi veramente da visitare. Si tratta di un'area montuosa in provincia di Salerno, con uno scorcio di paradiso ancora prevalentemente, pensate, allo stato brado, quindi è praticamente patrimonio dell'umanità e dell'UNESCO, una zona veramente bella, il Cilento in campagna. Poi ovviamente, passatemelo, sono un pochino campanilistico, l'Oltre Po Pavese e anche la provincia di Piacenza. L'Oltre Po Pavese è una zona collinare, ma non solo, che si trova in provincia di Pavia, tra appunto le province di Pavia e Piacenza. Sono zone molto carine, soprattutto in primavera, d'estate, ci sono queste bellissime colline con questi paesaggi meravigliosi, con degli scorci incredibili. Qui si mangia veramente veramente molto bene, quindi se siete magari amanti della cucina di una volta, potete riscoprire vecchie pietanze sia dell'Oltre Po Pavese ma anche della provincia di Piacenza, che praticamente è attaccata all'Oltre Po Pavese. Ci spostiamo proprio a Piacenza. Se invece volete recarvi proprio a Piacenza, nella vicina Piacenza, avete anche l'opportunità di passare una giornata in Trebbia, quindi potete andare al fiume, che è veramente limpido, cristallino, un pochino freddina l'acqua. Poi anche in questo caso si mangia molto bene, c'è la coppa, c'è il salame, insomma, piatti tipici, chi più ne ha più ne metta. Ora invece ci spostiamo nella riviera del Conero, un'altra bellissima zona, siamo nelle Marche. È immersa nel Parco Regionale Naturale del Monte Conero, certificato con la Carta Europea per il Turismo Sostenibile, quindi avete anche in questo caso la possibilità di fare molto trekking se vi recate magari nella riviera del Conero, nelle Marche. I prezzi anche in questo caso sono sostenibili, non è tipo magari, non so, magari un Ischia, una Roma, insomma, certo bella, ma i prezzi lievitano di tanto. Se vi piace fare trekking, quindi anche la riviera del Conero, direi anche l'Oltre Po Pavese, il Piacentino, potete scarpinare su per le colline. E prerogativa, non l'ho ricordato in precedenza, che dalle colline del Piacentino, ma anche dalle colline dell'Oltre Po Pavese, potete arrivare direttamente a Chiavari, quindi in Liguria, e scoprire tutte le bellezze della pianura, della collina, ma anche del mare, perché scendete a Chiavari e magari ne parleremo in un'altra puntata e potete gustarvi i piaceri e le bellezze, insomma, della nostra bella Italia. Io sono giunto in fondo anche per quest'oggi. Io ringrazio tutti voi che mi avete ascoltato sulla WRMI. Hai sentito I Love Italy, la conduzione Andrea Mangiarotti. Se vuoi interagire con me, andreamangiarotti.com, oppure voiceofitaly.it, oppure doublermi.net per i vostri rapporti di ricezione, ma anche per scrivere direttamente alla radio che ci ospita. Io ringrazio Jeff White per lo spazio e per la gentilezza. Quest'oggi abbiamo parlato dei luoghi nascosti della nostra bella Italia, che non per questo non devono essere dimenticati, anzi tutt'altro, vanno rivalutati e, se volete, anche visitati. Ricordate che se venite in Italia ci sono anche tanti cinema all'aperto, i cosiddetti, una volta si diceva drive-in, ma non sono proprio drive-in, sono in cinema all'aperto, come si faceva negli anni 40, quando mi diceva mia mamma si portava la sedia e si andava direttamente al cinema fuori, proprio in cortile. Beccatevi anche quelli, perché ci sono tante belle pellicole, anche vecchie, del cinema italiano da gustarci. Ciao ciao da Andrea, ci sentiamo alla prossima, un abbraccio e rimanete sempre su WRMI. Ciao ciao ciao ciao ciao. www.andreamangiarotti.com